dimmi un po' di titoli. C'era Bomber, poi Bulldozer. Ah minchia, è vero, Bulldozer. Gli angeli mangiano fagioli. Anche gli angeli mangiano fagioli. Ma vedete che aveva fatto? Quello botte di Natale. Botte di Natale. Ciao. Quello con la di un buggy. No, ragazzi, era quello che c'era. Dove c'era il buggy? Dove c'era Jerry Cavà anche. Aia. Aia. Ma mi sa che mi candido. Spencer, mi ha fatto tiro una scarica, mo che ti spacco la faccia. Aia, aia. Spencer, basta. Spencer, mi stai facendo male. Votato? Cos'hai votato? Che non sono adesso, le elezioni sono dopo, non adesso, Ma hai votato? Ma io... Ma chi voti? Volevo andare a votare e poi... E ho preso... poi la 95 non arriva, 20 minuti a aspettare, come al solito. No, allora ho detto, vado a votare, prendo il giornale, leggo e le so bene tutte, no? Voto. E cosa vedo? L'articolo... Minchia, decima pagina nell'angolino in basso. No, cosa? Si è candidato lui, cazzo. Mi sta rimanendo. No, mi si è candidato lui, Bud Spencer. No. Allora, la mattina mi alzo, no. Mi siedo giù in poltrona, mi leggo il mio giornale e vedo quel maiale, grasso come pochi, vicino a altri farlocchi che parlano di giochi sporchi e un po' corrotti. Ah, la retorica nel microonde che mi fa ingrassare. Guarda Bud, il povero maiale. Ho messo tre fagotti, è un gran bel fagottino. Un pollo con due agnelli ed un pomodorino. Ho aggiunto una carota, ho messo maionese. Ed ecco qui già pronto Bud Spencer, italiano e canadese. Ma allora è una balla! Ma allora non è vero! Ma allora cosa siamo qui a fare? Andiamo a votare, guardiamo le cose e poi arriva Bud. Bud che va da Silvio e poi arrivo io. Ma hai votato? Arrivo io che vi riempio di cartone tutto quanto. Vi riempio di cartone manato. A te tipo, cosa hai votato? Io sono Terence Hill. Cosa hai votato? Io sono Terence Hill. Per riempio di cartone, no, tutto a te. Per riempio di cartone come una manata. Voto perché sono Terence Hill. Ehi, Terence, ti ricordi quando facevamo i film? No, non mi ricordo, scusa, mi dispiace, ciao. Forse ti ricorderai questo. Ah, non ti è bastato, coglione. Bud Spencer, prenditi sto trip. La droga non mi fa. Ho provato, ho detto non voto, ma la droga non mi fa. Io sto con gli ippopotami, mi faccio un bel reprise. Sto con gli ippopotami, ma tu non lo sai, ascolta la B-side. Io sto con gli ippopotami, vado con Berlusconi. Io sto con gli ippopotami, vado con Berlusconi. Con Berlusconi. Perché io voto Terence Hill. E allora voto Terence Hill. e noi votiamo Terence Hill. E allora vota Terence Hill. E noi votiamo Terence Hill. Votiamo Terence Hill. E allora vota Terence Hill. Allora vota Terence Hill. Allora vota Terence Hill. Vota Terence Hill. Allora vota Terence Hill. Perché faceva i film contro Bud Spencer. Vota Terence Hill. No, alla fine se la Carrasi il candida, sicuro paura, voto Iapino. Iapino. Cioè, ma Iapino che schiaffi ti tira, al massimo così. Dopo Arnold Schwarzenegger. Arrivo finalmente qui all'elezione. Bud Spencer.